Eccoci, ritornati amici. Allora, io lascio subito il microfono all'amico, fra virgolette, Giacobbo. Abbiamo l'appuntamento settimanale con Voyager. Perderei temblar quando si fosse. La la la na na na na la la. Mamma, ma hai rotto papi, coglione, si temblare mava di cangami comincia. Regista, che singolare modo di esprimersi. È egizio? Ma da dove proviene, appunto? Egizio, lei? L'ultimo lotto via Popella, sono di nuovo ti faccio trovare la macchina su qualche mattone. Pupilia, l'antica Abruzium. Veramente Abruzium, mo l'hanno fondata che la curva nord, io che in terza categoria, in onda, sciamba! Bene, cari amici di Web Radio Luzzi, benvenuti a Voyager. Oggi vi porteremo con la nostra 500, che non so da dove è uscita, a svelare i misteri che attanagliano il nostro pianeta. Infatti scopriremo... Vai con il collegamento in sovraimpressione. Quale collegamento si nasconde tra la galassia di Andromeda e un gruppo di 100 ragazzi in bikini su una spiaggia? Perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me? Perché se non è zuppa e pangrattato mi sono già all'acqua? Un mistero che ci attanaglia tantissimo, ma una cosa proprio impressionante. Massimo Maneggio Rudy Zerbi, è una semplice somiglianza o sono la stessa persona trasfigurata in un spazio temporale? Perché se Tanaglia va al bagno quando caca, arritta o arritta quando caca? Non si sa. È un mistero della notte questo. Barack Obama e Lewis Hamilton sono la stessa persona oppure un ectoplasma? Come fanno le vecchie regge calabresi a portare una dammigina di vino di 10 litri sulla testa senza mai farla catene? Poteri paranormali o è l'intervento del nostro impressionante team del mistero? Com'è possibile che il mondo finisca nel 2012 quando il mio mutuo scade nel 2040? Questo e altro ancora sul programma del paranormale che vedrete continuamente e vi scasseremo l'anima fino alla morte. Minchio, vedi che è Italia ora, ma tu... Allora, vedi una cosa paranormale? Molto volentieri, che ci mancherebbe. Chiuda lo e c'è la pavo che fa... Ah! Mo' sì che le mannate all'altro mondo.